Greco, cittadina di Sassari, qualcuno in coppia, cambio. Luca. Daniel, tu sei? Dani. E chi è? Ah, eri tu allora. Ma stavi facendo qualche prova? Io qua sto ballando, sto facendo, c'avevo la... questo baracchinetto acceso. Mi ascolti bene, sì? Forte e chiaro, cla. Ah, sino a poco fa, si dalle prove, stavo cercando di eliminare questo rumore dalla vetro dell'alimentatore che è fastidioso, cla. Ma c'hai molto, molto di camera vuota, Daniele, molto di camera vuota c'hai. Quindi abbasso qua, è in vuota, non so che entra una camera, e cos'è, 1,80 m per due, quanto è questo soppalco? Per il re. Ciao Lu, non so se mi ascolti che sono precario. Buonasera, è un bel di effetto camera, sento, di vuoto, capito, qualcosa, non lo so. Non so se Luca ti ascolta bene. Lu, sono in alto mare. Mi sto ancora imballando, ancora. Venera Vancouver, non so come che mi dai. Ah, sì, sul più, sì. Vedete se ti ascolto. Come al solito. Daniele, lo ascolto pure io, un po' effetto camera. Avanti, Daniele. Buonasera, Lu. Guarda adesso, Clark, le ho abbassato la preamplificazione, com'è? No, ma non sei molto amplificato, va bene. Lu, io sono con 4 watt e sono dove sei tu, vicino a Marina, per capirci, non sono a Sassari. Cosa ti stavo dicendo? Non sei molto amplificato, sento però questo effetto stanza, capito, questo vuoto, o Daniele, confermi anche tu, o Lu? Sì, a confermo. Io ho cambiato lo Smith dalla radio e se la porto, va. Scorre bene, limpido. Tu sei da Marina? Staffa. Ti dico che arrivi con lo stesso segnale che arrivi da casa tua a Carbonazzi. Cazzo. vabbè, qua è più aperto, qua. C'è da contare che lì a casa da mamma in basso, molto basso, palazzi contro palazzi, qua alla fine sei tu su e io giù. 9+20, sì, abbondante. Anche Daniele non te lo segno. Vi vedo tutti comunque, non sa, non è un problema, dai, adesso mi rimango un po' in ritiro perché c'ho un sacco di cose da fare, però l'antenna è già collegata, anche se è bassa poi la metterò come deve andare, la sala radio tornerà com'era, va. Ti dico giuro, ho otto i cattoli che ancora non ho sballato, c'è scritto solo radio, cavi più radio, cavi più radio, microfoni, otto i cattoli viene. Che devo che sia, cazzo di cazzo. Vabbè, là. Interessante che sia stato tutto ok. Io ero mezzo bloccato con la schiena, mamma mia, ormai un po' mi sono ripreso, forse mai mi ha fatto bene la pomata, le medicine che ho preso. Ci mi abusavo di sciapisa a minima, te rendi conto? Non riuscivo ad alzarmi dal divano, dalla sedia, chi su chi è. Cavolo, ma ormai adesso già ci riesco senza problemi. Dal letto, ci mettevo un po' ad alzarmi, non riuscivo proprio. Lu, io spero che non mi ceda anche a me la schiena, perché io sono sali e scendi dalla scala, svuota, metti, imballa, fai, sposta e c'è anche roba pesante. Considerando il fatto che di mobili ne ho smontato ben pochi ancora, sto solo svuotando. Quindi adesso sono qua, e tra che ore sono 5:15 e 6:20 passa Ilaria a prendermi. E torniamo su a Sassari a continuare a fare, capito? Perché a Sassari non ho staccato già tutto, non mi interessa niente. Qua quando ci sono, magari se vi sento entro a salutarvi, se no non ho molto tempo di stare alla radio, cari, capito? Avanti, Daniele, dai, un altro passaggio e poi io vi lascio, rimango, vi ascolto volentieri, radio accesa, ma se no mi metto a fare, mi sto rilassando 10 minuti a fumarmi una sigaretta. Riprendi, Daniele, tu mi ascolti bene, sì? forte e chiaro, qua, quasi 9:30, sì. Va bene, va bene. Riprendi, Ru. Cazzolani, e poi hai detto un tugure, ma la stai usando? Sono tornato, guarda, alle vecchie origini. Ah, ho capito. Ma non esci bene. Non è l'ultimo microfono. L'80, Daniele, senza offesa, io li ho avuti sia l'80 l'85 e li ho dati subito, nonostante io sia uno di quei pochi che riesce ad avere un'ottima modulazione, però con l'80 e 85 non andava. Molto meglio il 60, ti devi procurare un 60, se no non vanno bene quei microfoni, per la tua voce non vanno bene, sei troppo cupo, no, però diciamo che sei metallico, che non manca di toni bassi, manca molto i toni bassi, capito? Quindi devi rimediare, Daniele. Stessa Diro, pazienza, quello tienitelo di scorta, poi te lo vendi, ma se vuoi uscire bene cercati un 60 subito, immediatamente. Chiedi un po', Cla. E c'era uno che ce l'aveva, io non so se l'ha dato, a me me ne è rimasto un solo, perché tra l'altro di radio adesso ne ho un solo, le ho vendute tutte, compreso anche il 440 e il 140, mi sono tenuto il 430 a linea completa, e appunto me la spedisce lunedì perché è terminata, ha fatto un lavoro eccezionale, tutta rimessa a nuovo. Anche il kit delle spinette mi ha messo nuovo perché ballavano tutte, capito? Ho fatto a fare tutta nuova e quella me la tengo. Dovrebbe partire lunedì, quindi mercoledì dovrebbe essere a Sassari, con la speranza che mi trovi il corriere, non lo so. Vediamo un po'. Infatti ho detto di mandarmi il numero di telefono del corriere, ma sta piovendo. Il numero del corriere perché sicuramente ci dovremo sentire, se no rischio che se lo riporti indietro. Va bene, dai, io vi saluto, se coincide, ma non ve lo assicuro, se coincide può essere pure che se sono qua stasera due passaggi me li faccio, altrimenti ritenetevi salutati, fate da bravi, eccetera eccetera, io già sono informato sempre di tutto, già vi sento comunque, vi sento, non c'è problema. Dai, un abbraccio, ciao Dani, saluta mamma e a tutta la truppa, che tu sai, magari noi già ci aggiorniamo, dai, se già ci sentiamo su WhatsApp. Non c'è problema, anche io sto entrando poco alla fine, uno sono qua, poi stasera c'è freschetto, ho capito, la truppa accende, ma qua il calore poco entra, dai. Perciò me ne sono il soggiorno con Marina, guarda un po' di TV, il telefono, così, dai, ammazzare la serata così. Ciao, avanti, vabbè, siamo qua comunque, qua, tranquillo. Avanti, Daniele. Eia, eia. Se senti, fammi sapere, così questo lo imbarchiamo subito. Così riproviamo l'altro, ve lo già dice. Beh, Daniele, l'altro io mi ricordo che era una cannonata, quindi andavi molto molto bene. Questo, ti ripeto, è una radio buona, però non è molto apprezzabile con quella radio. Tu hai necessità del 60, capito? Va bene, dai, comunque già vedo un po' di farti sapere, già c'ho WhatsApp e te lo faccio sapere, se adesso le mando un messaggio, se ce l'ha ancora, se me lo dà. Non è nuovo, però insomma è abbastanza in ordine, diciamo, rispetto ad altri che ne ho visto, ok? Vediamo se riusciamo a tirarglielo al prezzo più basso, se ce l'ho là, se ce l'ha ancora. Va bene, dai, ti faccio sapere. Ciao a tutte e due, buona serata, buon tutto, mi devo allontanare perché mi devo sistemare tutte queste cose ancora. Dai, ciao a tutti. Ciao Claudio. Riprendi Lux. Lugarie. Si deve essere allontanato, già ci aggiorniamo dopo, ti mando un messaggio, adesso mando un messaggio a questo cucumiao se ce l'ha ancora, se non ce l'ha la lampada dello gomo, perché anche lui ci aveva venduto tutto, però mi aveva detto gli erano rimasti due microfoni, uno li avevo preso io, l'altro vediamo se ce l'ha ancora, ti faccio sapere. A Claudio, grazie mille, dai, aspetto tue notizie. Va bene, buon proseguimento e buon tutto, dai, salutoni anche. anche tu al correa familiare, qua contraccambiano tutti al 100, dai. Alle prossime, Cla, buon proseguo di serata. Ciao, ciao, Dani, ascolta, che sappi tu, Angelo Dau, Dau, quello dei trasluchi, ancora, sta ancora lavorando? Penso di sì, Cla, l'ho visto anche da poco, mi sa che sta facendo un trasloco. Ed è sempre lì via Napoli, mi pare, no? Era sempre lì. Qualche tempo fa sono passato, sì, era sempre lì. Comunque ti faccio sapere, Cla. Io si conferma, dai, va bene. Perché mi servirà appunto per smontare le parti grosse e montarle poi nella nuova, capito? Io non sono capace, magari metto tutti gli sportelli uno più alto dell'altro, eccetera, loro c'hanno una gente esperta che fa queste cose. KK, ciao, dai, ti faccio sapere dopo, adesso chiamo a questo bimbombano, a vedere se ce l'ha ancora, questo MC60, perché da poco mi ha detto che ce l'aveva, infatti mi ha detto, lo vuoi, non me ne ho fatto nulla, era giù del MC60, già me ne vuoi. Invece poi anche io due li ho dati, non sapendo che tu che ti serviva, se no te l'avrei regalato uno, figurati, ce l'ho già, però ne uno solo, Dani, se no te l'avrei regalato adesso, ti ho detto, vieni a prendertelo e portatelo via, ma non ne ho. KK, dai, ci sentiamo dopo, Dani. K di Ross, Metro Cla, va bene, non c'è problema. Buon tutto e alle prossime, dai, poi ti... Adesso controllo se sta ancora esercitando e ti faccio sapere. Ehi, va bene, ciao ciao, ciao a tutti, anche quelli che ascoltano. Un saluto circolare a tutti, ciao. Ciao ciao, poi. Ciao Cla. Ciao Lugariere, saluta a Manina, poi se sono giù già... Non ci siete andati oggi in campagna? No, tutto anche da parte mia, Anna. No, domani Cla. Quindi magari domani se siete in zona. Sono giù, ma sicuramente sì, perché c'è un mare di roba da fare. Mamma mia, Lu. Mamma mia, Lu, non te ne dico. Va bene, dai, già ci aggiorniamo, comunque ti faccio sapere, ciao. Ehi, va bene, non ti preoccupare. Andiamo. Magari mi porto giù il PMR, boh, c'è qualcuno. Io c'ho un portatilino, però non so se è PMR, boh. Non lo so, c'ho solo questo, ho messo questo helmet con l'alimentatore e ho agganciato il cavo così volante, infatti. Anzi, oggi mi metterò ancora un gurlo che le metto le belle, il cavo va nel sacco, lo metto di nuovo fuori. Perché è tutto volante qua, dai. Poi già ci aggiorniamo, ok? Via, vabbè. K e poi K di Rosmetro, riprendi Daniele, ciao. Che mi ciao Kawhi. Lu, ma la vento è ancora fastidiosa, E un po' ti sente. Porca miseria, ma almeno l'altro giorno, non so se mi hai ascoltato. Mi sa di sì. Perché l'ho messa dalla parte opposta di dove era prima, forse sarà leggermente più lontana. Io sono dentro, si può dire, sono dentro un quadrato, Cla, va Lu. Capito? Ho fatto un soppalco e mi sono fatto un quadrato. Basso. Mi sono ricavato una stanzetta. Ah, ecco tu, Sala radio. Sala radio, sala casino è diventata adesso, mi hanno avuto sistemare. Guarda, ti ho mandato un messaggio. Ti hanno mandato un messaggio? E ti ho mandato un messaggio. Ah, aspetta, adesso scendo a leggerlo perché ce l'ha Marco il telefono che sta parlando con un compagno di scuola suo. Adesso me lo leggo, Lugaria, aspetta un secondo. Perché vuoi essere online su WhatsApp? Sono online perché mi stava parlando Marco, aspetta un secondo che me lo leggo. Chi mi ruga, guarda che ti ho risposto. Ora la cipolla, 1, 2, 3, 4 e 5, la peppina fa il caffè. Ora. Grazie, rifarlo. Guarda Lugarie, 1, 2, 3, 4 e 5, la peppina fa il caffè. Ora. Positivo, ma io bene sto arrivando Daniele da te. E a voglia Lu, 6, 9, 9 e 10 a picchi positivi. Sente una bella interrazzo. Va bene, dai. Che duro, la ventola del coso, del come si chiama, dell'alimentatore staccata. Aspetta un attimo, devo ascoltare un messaggio. Sto ascoltando il messaggio. Cazzo, sempre in moto, sembro. Un po' poi la riattacchi, come faccio io, non si brucia, poi non siamo in estate, in estate lo devi lasciare attaccata, altrimenti ti si crepa, perché surriscalda, come si dice, e lo fai come il mio, cosa adesso, fai 5, 6, 10 ore, non lo fai, non è che... E il coso che lo devi aprire, poi devi levarne proprio la scheda da dentro, fare un foro di cui uno può entrare nel campo l'alimentazione e l'altro per i buchettoni rosso e nero, e li fai passare tutti da dentro, poi il resto nel coperchio metti il tastino d'accensione e il tastino per la ventola. Apo comprendio, bene vai là. Quanti volevo dire, va, mi sono dimenticato. Sì, perché c'ho anche l'altro da per il drone a 24 volt. E anche quello è gemello di questo, però non fa tutto questo casino lui. Anche se ha messo dentro una, diciamo, un cioè il suo case, ma casino così non ne fa. Chi è davvero? Avanti. Ciao Cariella. Ah, tu sei Febbe. Stavo provando Luca, c'è quel filo staccato del microfono, ero io poco fa, sto provando l'applicatore. Ah ok, vabbè, qui c'è già ho detto parolacce. No vabbè, tanto io non è che sto entrando un po' mio, ho sentito poco fa Claudio, Daniele, sono entrato così, molte volte manco ci entro, una giugana fra, non è più come prima, dai, come i vecchi tempi, capisci a me. E no, stavo provando un applicatore, stavo provando, stava funzionando, sto lì. Niente preoccupante, ciao Daniele, buonasera. Ciao Fra, buonasera, sei tutto a tratti, strappato, è troppo complesso Fra, sul 3 mi stai, sei sul 3 mi. Sul 3 mi stai arrivando qua alla 25, tra il più, più avanti del più, sul 3. Strappato come? Troppo alto di radio o che cosa? Basta, basta qualcosa, adesso, basta che sei troppo agganciato. No, no, sto scendo liscio, Lucarie. Sei troppo, mi fosse vicino al microfono, basta, allontanati il microfono dalla bocca. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5. Adesso va meglio, poco di più. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E adesso, Daniele? Adesso ormai è più comprensibile, non è più strappato. Prova un altro paio di passaggi, Fra. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lascia così, sennò poi tendi a strappare parecchio. Vabbè, dai, io devo andare a una sciacquata che la signora vuole uscire, là. Che a frappè. Ehi, a Lugarie, dai. Che anch'io mi sa tra un po', devo uscire, non lo so. Andrà bene, Meda, riprendi Fra. Quanto è il segnale da te? Qua sei, 9.20 Fra. 9.20, aspetta. Ma è troppo alta, sennò abbasso, 9.20, ok, aspetta un secondo. E adesso quant'è? 9.30. A frappi, andavi, dai. Prova a fare il secondo passaggio come quello di prima, Fra. Questo? No, attacca. Questo qua? Fai un passaggio appena più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedi? Adesso non te la strappa la modulazione. Se stacchi, strappi. Così va bene, così come mi ascolti. Così sei leggermente strappato, Fra. Come fa a essere strappato? Sto facendo un po' più guardi. Neanche 10 guardi, guarda un po'. Se parli così va bene. Sto facendo un po' più guardi, non sto facendo altro. Sì, ma il problema è che va a strappare, capito? Non sei né saturo né cupo, niente. Che tendi a strappare, come se fosse troppo alta la modulazione. Allora, aspetta un attimo. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E adesso l'ho regolata bene, così dovrebbe andare bene. Dai, già migliorato, Fra. Meno di prima, però un pelino già strappa. Però se attacchi è un buon po'. Lo so, ma se attacco però esce oltre i 200 watt, non posso dare 200 watt qua. Cava. Già va bene. Allora lascio così va bene, dai. Lascia il gai, Fra. Sto scendo con, no, lascio vedere. 5 watt modulati. Non stai più strappando. strappando? No, va, più che bene adesso, fra, lascia così, non tocca se nulla. Andava, dai, allora lascio così. Si conferma, puntella. Una bestia questa che. Già funge, già funge. Non c'è più nessuno a questa radio, per carità. In questi giorni, insomma. Ma qualcuno già c'era, anche ieri sera qualcuno già c'era. Ci ha fatto due chiacchiere e basta. Magari è a periodi extra. Lo so, ora che ci vuoi fare? Cava, aspetta che c'ho una bassa. Cava, dai. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prova radio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ora, 1, 2, 3. Ora, 1, 2, 3, ora, 1, 2, 3, ora, 1, 2, 3, 4. Prova radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora, prova radio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Cosa? uscendo male già. Comunque è lui. Come sto uscendo male? Cosa sta succedendo? Tutto tra te ieri già. E quando clicco male il coso, il microfono lo fa. Tutto tagliuzzato lì. Va bene, va bene. No, l'importante è perché ieri la ventola, adesso l'ho spostata dall'alimentatore, come l'ho spostato sicuramente adesso va, con l'allontanato un po' di più sicuramente adesso va un po' meglio. Cappa, cappa, e io l'alimentatore non ho bello, uno bello grande di quelli col trasformatore dentro, quello ho tutto ripristinato, ho messo le luci belle bianche. Ehi, va bene Gianni, dai, io ti devo lasciare che sennò oggi mi picchiano. Ce l'ascoltiamo alle prossime se coincide, dai. Va bene, dai, ci sentiamo, buona serata. Grazie Gianni, altrettanto, dai, buon proseguimento di serata, sei anche prima di cena o dopo cena, dai, se ci sei. Salutami il resto della tua famigliola. Grazie, contraccambio, allora dai Gianni, alle prossimine. Ciao ciao. Ora. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Muto. No, io non lo sento. la tenga. Aspetta qui, cioè da questa invece 60 all'altro ce l'ho di fare sta notte, e poi si sente che il mio? Vabbè, aspetta che cambio un attimino una cosa. Oh, strano che si senta il rumore. È capo originale, l'ho comprato da internet. Che fa? Da Ken Voodoo a... ora non mi viene il nome. A Icon. Sì, niente a che dire, però... Adesso già, guardami, sentimi la radio qua, Timino, sicuramente ha cambiato dall'altra, però volevo sapere se va in compressione. Anche in questo lo sento, con questa radio ti sento che vai appena in vibrazione comunque. No, è chiara. Bene, aspetta un attimino, sto facendo una prova, Guarda adesso se ha cambiato qualche cosina. Ce la chiude appena, ma no, niente di che. Aspetta, sto guardando uno strumento, lo rimetto come la prima, ce l'ho, aumento appena, guarda appena si è cambiato, se l'ha smorta. No, tutto. Aspetta un attimino, guarda così, 1, 2, 3, prova, prova il microfono. E così comincia a chiudere la radio. Cazzo, vediamo un attimino, scusami un attimino, Allora, facciamo tutto. Vediamo come siamo qua. Sì. Allora, stiamo andando. Pochissimi tanti. Dovevo andare in 5, aspetta che faccio la prova. Aspetta. Così è troppo chiude? Allora faccio il fatto di si è fatta 5 watt e mettiamo e ne mettiamo 3, guarda si è migliorato, 1, 2, 3, prova. E allora 3 watt vanno bene, perché poi questo farà 3 a 18, quindi pompa. Prova a metterne 4. L'entrata aumenta per appena. Ecco qua, 4 watt, ma forse sono troppi. No, non lo so, vanno bene. Non vai a saturazione, va bene? Ah, è appena più saturo dell'altro, ma proprio poco. Allora bastiamo, guarda il segnale già. Avete prova ad attenuarmi, così è agganciato, E così invece non c'è niente. Così niente. E così è agganciato. Da 1 a 4. Da 1 a 4 è un bel. Attenuato. Sì. Avanti Danilo, mi pare che Danilo è scoraggiato. Sono cose che possiamo capitare da qui, col microfono non sta pompando secondo me, non è che sotto ha messo io ma si da come devo essere. Non lo so, io a parte che non so se sta usando che determinata radio che sta utilizzando proprio. Lei? Sì, ma io nel 450 c'è un segnalatore che ti segna quando uno sta andando troppo di radio, non c'è un disturbo per l'andare, capito? Buonasera. Che fai troppo qua? Rumbo, ciao Gianni. Sì, addirittura fra. Vai. Oggi mi tocca finire lo smuta. E di quello che ti ha fatto andare qua. Come 20, 1,30, attacco. No, vabbè, sto provando a diventare un amplificatore. E si è fottuto altro che il 1000, devo farlo controllare. Ma sta andando bene, sta andando. Comunque con un 4 watt sta riuscendo benissimo, non è neanche ciò. Forse io sono più lontano e non ascolto più bene, diciamo. Allora ti chiami, buonasera. Noi siamo vicini, io come ti arrivo fra? Vai, hai fatto due tenuti, va a operare un po' di... Certo, 9:10. Che vaga. Già va bene, poi c'è anche aumentare più sacro. Va per aumentare. Così come sta andando? No, così sei stato. Ma quanto ne stai dando già? Dopo ti dico quanto ne sto dando io, ma prometto, c'è. Io la metto di te. Lo so, ma io farei usare tutto da una fortezza deve essere lontano. Tipo uno scusi a devo bene. Anche di radio devo bene. Capisco. Ho l'altro 550 che è attaccato all'altra radio, però sarà appena più altino di questo, ma poca roba, Però, stava bene così. Dove ti arrivo? 9 sì, adesso, 9 qualcosa. Lì mica puoi attaccare le linee. Siete tutti vicino anche voi. Stavo facendo una prova, non è che lo stavo attaccando, stavo provando a vedere come andava. Sì, vabbè, è uguale. È uguale. Ma se ti attaccare lì vicino non fa. Tutti vicini, per lontani, la distanza ce ne sono poco. Sì, ma infatti guarda, adesso per dire sto utilizzando neanche 3 watt, però se metto a 4 e attacco, allora va in saturazione. Si vede la differenza tra. Sì, vabbè, adesso non si è attaccato, adesso si è normale, come ne accorgo dallo sviluppo. Di 9,5. 9,5, guarda, adesso ti faccio solo il vasto l'apparato, aspetta, Allora, così siamo a 5 watt, aspetta un attimino, credo che vada ancora qualcosa in più. Ecco qua, questi sono tutti i watt dell'apparato, non ne ha altri. Arrivi 9,10 modulati, 9,12, 13 da. Con il watt dell'apparato. Spingi quel microfono, sta spingendo. E diciamo che sta dando ora 15 watt, 15-18, non di più. Più o meno quello che sto uscendo io là. Va bene. Gianni, così come ti arrivo a te? Così lo lascio senza niente, che faccio. Cosa che io non voglio sfruttare quelli suoi, dai. Non voglio sfruttare quelli degli altri. Sì, ma dico, ti ripeto, sono il watt dell'apparato, non va oltre. E quanti ne va? 18 al massimo, adesso mi ha toccato un piccolo a 20, ma ogni tanto. Secondo che apparato è io, ne ho uno che dà la vita a 50, va con la 50. Ah, questo è un similare del Galaxy, dai, è un HR5005. Ma il Galaxy è Galaxy, le punti, va bene. Comunque, adesso sto facendo un po' di base, non è meglio imparare tutto, ma tanto è base. Sto facendo una stazione di cacciare. Ma complesse? Grandi? Sì, grandi, sì, è grande. Questa stazione in base. Cioè, siamo 3.900 e vabbè. Adesso metterò un altro apparecchio che mi sta arrivando. No, mi sto dando l'altro io, adesso stamattina mi sono portato un container, è bello, sto frequentato, sembra una cella a figlio. Solo che non ci passa il camion all'entrata di casa, adesso lunedì mi danno l'altro camion con la gru e lo mettiamo dentro. Sto macinando l'altro. Ma stai macinando l'altro? Sto macinando ad altro che farmi la stazione, capito? Cosa ci devi mettere dentro questa casa? Che sono curioso, questa... Cosa c'è a vedere, sassi? quindi adesso me la stabilizzo domani, lunedì, e poi vediamo. Può contare così quanto costa, posso di quelli da distruggere? No, no, questo è... questo costa, questo 2005, però è tutto coinventato, è coinventato circa 15 centimetri, quindi è bello compatto, con il body suspense all'interno, delle finestre, impianti, impianto luce e quant'altro. Poi lo devo gestire un po', là, che ci devo mettere un deumidificatore e un condizionatore, poi impianto pannello fotovoltaico e così, là. Dimmi, fra. Ma tu ci sto, che mi stavo dimenticando. E se tu il simulatore e giri un po'. Dove le vendono quei box in lamiera, quelle isole e cantieri? Ma io credo che del 5 ce l'abbia. Capolino, quelle cose lì. Coso, quello che c'è, come si chiama quello? Stai andando verso la motorizzazione, adesso non mi ricordo il nome. Sì, Scandellari, anche quello. Anche quello c'è via. Devo prendere uno per metterlo qua in terrazza, per mettere attrezzatura, dai, mettere la roba, per non avere tutto ammassato. Vabbè, quella è la mia, quindi diciamo la verità che se te lo puoi venti in estate può anche andare bene, se no è un bel gatto. Io ce l'ho lo stesso anche quello lì, però per attrezzature varie. No, questo l'ho preso per altre cose, per alimenti, quindi adesso lo devo sanificare, lo devo tenere. È pulitissimo, va bene, come solo che devo fare qualche piccolo lavoretto, tipo, ti ripeto, luci, lavandino, questa roba qua. Va bene signore, mi devo spostare, devo andare a prendere mio figlio che lo devo recuperare lì vicino a Sant'Orsola. Magari se ci siete ci sentiamo più tardi. A te il Mike, Gianni. Ehi, allora, io sono andato ieri a recuperare mio figlio, scusami. Oh, via, di notte, grazie alla campagna, ha dato la festa, no, non è conto con l'amici, da. Ma che da recuperare è stato un casino. Avanti, Franco, dai, ciao Tino, dai, buona passeggiata. Sì, ciao Tino. Buona passeggiata, buon tutto, dai, ce la sentiamo. Magari se ci siamo, siamo più trovi qua. Sì. Beh, passeggiare, siamo andati a prenderlo e tornare a casa, perché proprio il passeggiare non a giocare oggi. Abbiamo fatto un po' di, non dico lavoro, ma tra caricare, scaricare, fare, montare, insomma sono dovuto andare presto lo stesso. Come una giornata di lavoro, diciamo. Va bene, a dopo. Ehi, sì, a dopo. Cavagata, vado la mate e torno. Per modo di dire, lo vado, lo prendo e torno. E allora, ciao, a dopo. Ciao. Avanti Danilo. Danilo ci sei? Fra, riprendi. Danilo c'era. C'era Danilo, ma deve essere, sta controllando il microfono sicuramente, perché si è preso uno spettone per adattare dei microfoni, non va bene. L'ha preso originale, ma no, da qualche parte non va bene. Fa un rumore sottofondo che io non sento, sempre va su. Però va bene, io sono lontano, magari non lo sento per questo. Ah, lui era quello che poco fa, sì, forse ho capito. Ma non era un rumore di microfono di cavo, non era. Sì, era qualche cosa che ci aveva acceso lì a vicino. Non lo so, io non ho sentito nulla. Ce l'avete, non sentito nulla, non è che ci sono andato. E tu fra, cosa aveva raccontato? Perché si può uscire, potevo uscire a Paragi, andavamo e via. Mi avanti ieri, no ieri, avanti ieri, a Paragi, si può girare in casa a fare campagne, a prendere il paramo, e poi a mare, lì tra la marina di Sorso, verso la riviera di Sorso, a piedi, andando e tornando. È già va bene a camminare. male, a pescare a Napoli? No, no, non ci sto andando. Ancora non ci sto andando. Adesso è una distensione dell'amico mio, perché solo non mi piace andarci. È una distensione dell'amico mio, adesso tra poco. Adesso come si dice di sistemare la via e ci andiamo. E là è stato ancora espresso. Io sono andato una volta più versato, ma non mangiava nulla. Siamo andati lì, io mi stato lì, io ho voluto a regalare perché non mi hanno consumato, però non c'era nulla. Capo. Casino, ma niente qua, l'altro giorno mi sono avvicinato lì, dopo aver finito la passeggiata, mi sono avvicinato, c'era uno, e mi ha detto, io sono di non vedo nulla, manco una Ducata, ma manca vedere la Ducata. Sì. Ancora c'è freddo, prima o meno ci sono pescati. Non verrai, andare a pescare calamari, sì. Sì, devi andare al mare di fuori. No, non è purtroppo necessario. Andare per pescare anche a Capodottore, perché è sicuro. Andare, devi andare dove c'era anche per fare il vicino, che non c'è più a fare, lì in mare. Ho visto che c'è un bel di gente lì, ci va, in quella zona. Dice che stanno prendendo, c'è anche un amico mio, non so se lo conosci, Fulvio Manta, come fa per tutti questi pesci, non ho capito, con la canna da pesca, ma è un vigrino. Quella si chissà che gusto, lì c'è un posto un po' non fissare,